Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. Il buco riscontrato dalla Troika nelle finanze greche, le preoccupazioni sull'economia spagnola e sulla possibilità che Madrid chieda un piano di aiuti all'Europa, ma anche l'arrivo nei negozi del nuovo iPhone 5. Sono questi i principali argomenti della settimana al centro di questa nuova puntata di Economia in Europa. Partiamo dalla Grecia. Il buco delle casse di Atene, secondo il risultato preliminare del rapporto della Troika, Unione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale, è il doppio rispetto a quanto preventivato, 20 miliardi di euro invece degli 11,5 stimati. Anche il firewall eretto a protezione dell'Eurozona potrebbe aumentare vigorosamente fino a 2.000 miliardi di euro, il quadruplo rispetto alle risorse a disposizione del meccanismo di stabilità europeo ESM attualmente di 500 miliardi, grazie ad un escamotage non del tutto nuovo, il cosiddetto effetto leva. È lo Spiegel Online a rilevare le anticipazioni del rapporto. Sempre dallo Spiegel, settimane fa, era venuto fuori che il fabbisogno finanziario greco era di 14 miliardi, 3 in più di quanto preventivato. Lunedì 1 ottobre riprenderanno le trattative fra il ministro greco delle finanze Stournaras e i rappresentanti della Troika per finalizzare il pacchetto dei tagli al bilancio per il biennio 2013-2014 in cambio della concessione della nuova tranche di aiuti da 31,5 miliardi. Sebastiano Barisoni ha commentato tutte queste notizie con Vittorio Darold del Sole 24 Ore. La riportato che il governo greco richiederebbe un altro piano di aiuti, quindi sarebbe il terzo dopo quello da 110 e quello da 130, di 20 miliardi. Insomma, i conti ancora non tornano perché naturalmente la riduzione, c'è una recessione al 7%, quest'anno quindi si prevede un calo del PIL di meno 7% e le entrate sono appunto in calo, mancano 2 miliardi nei primi 7 mesi. Allora questa presunta, come dire, scoop di Der Spiegel l'aveva già anticipato una persona assolutamente credibile, che è Charles Dallara, che è il presidente dell'Institute of International Finance, cioè l'associazione delle più grandi banche del mondo, che appunto a venerdì aveva detto spostare la Grecia non ce la fa, bisognerà dargli 2 anni in più, che vuol dire dai 15 ai 20 miliardi di aiuti. E quindi insomma questa è la situazione. Come fare? Si è già cercato di trovare delle soluzioni, ad esempio il premier Samaras è andato a trovare Draghi per dirgli se rinnoverà i bond in scadenza, la BCE ha in mano dei bond greci, oppure se bisognerà semplicemente accelerare sulle privatizzazioni, che fino ad oggi dovevano fruttare 50 miliardi, ne sono fruttati circa 1,6, oppure dare nuovo slancio appunto ai tagli, nuovi tagli a pensioni e salari, ma mercoledì ci sarà un altro sciopero generale, naturalmente questo comporta dei grossi problemi, oppure ultima possibilità, allungare i termini per restituire i crediti da Fondo Monetario e paesi partner europei, che però vuol dire minore entrate per queste persone, per questi stati, per queste istituzioni internazionali, e quindi un nuovo, praticamente, sì, un nuovo aiuto. Andiamo alla Spagna. Il governo di Mariano Rajoy ha presentato giovedì 27 settembre la finanziaria per il 2013 da 40 miliardi di euro. Un mix di interventi pesante per la popolazione, visto che la manovra dovrebbe prevedere un aumento dell'IVA dal 18 al 21%, tagli lineari per i ministeri, riduzioni dei trasferimenti alle regioni e il taglio delle tredicesime ai dipendenti pubblici, a cui sono già stati ridotti del 5% gli stipendi. Nei prossimi mesi il governo potrebbe anche alzare da 65 a 67 anni l'età di pensionamento e istituire un'autorità di controllo sulle spese delle regioni. Misure messe in cantiere per venire incontro alle richieste di Bruxelles, che chiede alla Spagna di portare il deficit sotto il 3% del PIL entro il 2014. Oggi siamo intorno al 7%. In questo quadro già difficile, mentre a Madrid si susseguono le proteste di piazza, la Catalogna ha annunciato l'intenzione di indire un referendum sull'indipendenza da Madrid, mentre l'Andalusia Andalusia ha preannunciato la richiesta di 5 miliardi di aiuti al governo centrale, richiesta arrivata poi anche dalla Castiglia. Sentiamo il commento di Luca Veronese delle Sole 24 Ore, giovedì al microfono di Sebastiano Barisoni. Il governo Rajoy, da quando è stato eletto, continua a fare più annunci che misure correttive, tanto è vero che anche questa manovra da 35 miliardi non è completamente nuova, ma porta con sé una serie di interventi già annunciati in almeno due occasioni prima dell'estate. Certo è che c'è una stretta che è chiesta dall'Unione Europea direttamente e quasi imposta da Bruxelles alla Spagna, tanto che si parla ormai di sovranità nazionale ridotta per la Spagna. Dall'inizio di settembre è stata aumentata l'IVA di 3 punti, dal 18 al 21%, quella l'aliquota base, e poi ci sono una serie di provvedimenti che verranno dettagliati solo nel weekend, sembra, in modo più preciso, e che riguarderanno, può essere, anche le pensioni, anzi quasi sicuramente le pensioni, che verranno aumentate solo dell'1%, quindi contrariamente a quanto diceva Rajoy, verranno in qualche modo congelate, visto che non, l'1% non basterà a recuperare neanche l'inflazione. E poi c'è sicuramente il taglio, anzi il congelamento degli stipendi dei dipendenti pubblici, che recupereranno però la tredicesima, abolita invece per il 2012. E blocco degli investimenti in infrastrutture, insomma, sta cercando di recuperare dove possono. Ci sono anche un paio di riforme che vengono chieste dall'Unione Europea e che il governo spagnolo si appresta a introdurre. La principale è quella di un'autority per il controllo della spesa pubblica, in particolar modo della spesa delle amministrazioni locali, che sono il vero buco nel bilancio spagnolo, oltre alla diciamo modifica, se non riforma, del sistema previdenziale delle pensioni, come detto. Di sicuro l'incertezza che sta portando, sta continuando a regnare nel governo spagnolo da mesi, non aiuta a tranquillizzare i mercati, infatti lo spread sta ritornando a livelli, diciamo, pre-svolta di Draghi sulla BCE. E l'incertezza è data da molti elementi. Rajoy ha detto anche ieri che se chiederà aiuto solo e quando i tassi dovessero restare molto alti, molto a lungo. Ancora non si capisce bene cosa voglia fare. C'è chi, come il ministro delle finanze tedesco Schäuble, consiglia alla Spagna di non chiedere l'aiuto. Stiamo parlando ovviamente dell'aiuto diciamo sovrano, come lo definiamo, no? Per salvare l'intera economia spagnola, perché ricordiamo che la Spagna ha già ricevuto un finanziamento da 100 miliardi di euro per ricapitalizzare le sue banche che erano sull'orlo del default. Fra l'altro, anche di questi aiuti alle banche non ha ancora chiesto ufficialmente e utilizzato un solo euro, aumentando anche in questo caso le perplessità su che tipo di risanamento e che tipo di fabbisogno reale abbiano queste banche. E quindi Rajoy sta un po' scherzando e giocando con il fuoco, in attesa e nella speranza che i mercati si calmino senza dover chiedere aiuto e quindi dover sottostare a tutta una serie di condizioni, l'abbiamo visto con la Grecia in particolare, dettate dalla famosa Troica, no? Unione Europea, Banca Centrale, Fondo Monetario, certo. Che a quel punto, se Rajoy dovesse chiedere aiuto all'Unione Europea, entrerebbero pesantemente nella gestione interna e nelle misure economiche da approvare. Dal 28 settembre è disponibile in Italia, Austria, Belgio, Olanda, paesi scandinavi, Polonia, Portogallo e Spagna e molti altri paesi europei il nuovo smartphone della Apple, iPhone 5, che sta già facendo molto parlare di sé. Apple ha venduto oltre 5 milioni di iPhone 5 nel primo weekend. Nonostante questo, il titolo ha iniziato la settimana scorsa scendendo in borsa perché il mercato scommetteva su almeno 6 milioni di pezzi e la banca di investimenti Piper Jaffray indicava 10 milioni. Apple è in corsa per diventare la prima società che vale 1.000 miliardi di dollari. Secondo alcuni analisti, la soglia potrebbe essere raggiunta il 9 aprile del 2015 alle 11 del mattino. Altri ritengono che già potrebbe il 16 agosto 2013 arrivare a questo traguardo. Lo riporta il New York Times. E nel frattempo hanno fatto notizia i diversi errori riscontrati nelle mappe installate come applicazione nel nuovo telefonino. Sebastiano Barisoni ha parlato del debutto dell'iPhone 5 con Enrico Pagliarini, conduttore di 2024, programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia. Gli analisti non sono mai contenti, tutti si aspettavano molto di più dalla Apple, che ha deluso non solo gli analisti ma anche